funzionare, non capisco quale sia l'inghippo. Vabbè, lasciamo perdere, vediamo se Gianni sente meglio. Gianni. Ma il bidet gliel'ha fatta questa antenna? Ehi, già gliel'ha fatto l'acquazzone il bidet, il problema è che non si riprende. Chiamate Gianni se mi ascolta. Vuol dire la fredda acqua. Gianni, cos'è il cavalcolino? Ma pure voi a stare qua, questo canale è sempre sporco di QRM. Non ti sente Marcoli, comunque mi ha risposto, non so se l'hai ascoltato. Lei arriva a Santiago 1, deve essere arrivato dentro Porto Torres, è ovvio che lì non mi sente, non arriva nemmeno lui quasi. Va bene, salutamelo e salutamelo, buon lavoro di chi. Ti saluta già, buon lavoro. Ti riceve segnale 1, qua sei da me, 7, segnale 7. Ciao, buon poco. Ciao, dunque, saluto di Bessendico. Cava, ciao Gianni, io non ti sento più, la verità è che sei arrivato al lavoro. Cioè, solo io lo sento là, Gianni. Eia, io... arrivando roba di Santiago 4-5 e gli americani per fare le prove anziché dire hola dicono Ario. Au, così dico au. Già da me è fatto quasi 9 di segnale. Guarda adesso come sto arrivando, là. Sto quasi arrivito. 7. 9 è pieno da me, a picchi positivi. Adesso non su un cavallo e poi devo fare un paio di chilometri, siamo arrivati. E mi tocca di nuovo stasera. Avanti, lessi, ritenti. Santiago 9 qua, adesso la 5, a parte quell'americano, poco fa arrivato con 10, ha fatto un colpo che lo sentivo sopra Lucca. E c'è un paragrico che vuole entrare, allora ti salvo a stare, buonasera. Attenta, Stefano in contrada. Tutta la ruota. Ehi, avanti. Ehi, da Torino, ciao Cristian. Ciao Stefano in contrada, come stai? Come mai? È morto il gatto! Che gatto? E Stellina come sta? Stellina è a parte l'alto! Vuole bene i fuori! Ecco! Ma non è che mi si incintano! Non è che ci fai compagno! Già! Sono in busto, mi ha trovato! Beh, trovato! Ma non c'è più Barracchino in macchina! Salvatore, avanti. E così arriva a circa 5, Santiago 5, così. Comunque sì, c'è il casino di QRM appena, non molto, Ma gli ascolto bene, vabbè, già c'era un po' di QRM qua, in, diciamo, in questo canale, però gli ascolto bene, là. Non ho nessun problema. Poi, caro, questo qua è sempre... sporco, non ho mai sentito pulito, sempre un casotto, vabbè, avanti, compa. Questo qua c'è per detto che balla, tutti siamo qua, compresi gli americani. Tu sei, sono molto più forti, poi c'è una quella parlata da Bovaro, classica. Giù. Va bene l'amplificazione, è troppo alta. Io vado bene? Va bene, Luca, voglia. Non so, lì, da Gianni. Pronta? Ma dimmi. Sì, con la te l'amplificazione va bene? Ma sì, io sono già a Porto Torres. Ma so che mi stai ammassando. Si è ammassato un po', segnale 5. Ma ti ascolto, non c'è problema. Sicuramente magari qua ti ascoltavo molto molto meno di noi. Avanza, vado. Cosa posso parlare? Che tanto in salita non ce la fa. Adesso è passata la moglie e sta salendo. È la veloce, allora vai la turbina. E puoi andare a andare, Gianni, dove si può andare, mi. C'è lo cazzo. Oh, yeah. Ci è abbassato molto già, eh. Ah? Adesso non riesco a tirarti fuori, Non riesco. Ha detto ok, in mezzo ai palazzi. Ah, i palazzi, in mezzo alle ragazze, capito? Ah, Luca. Ah, poi di turno, bene, bene. Non li sentivo, non lo sentivo, lo sentivo io. Adesso non lo sento, lo senti tu, zia. Ehi, mi tanto arriva. Così così, insomma, se passo veramente, adesso siamo terra a terra. Vabbè. Piazzi contro cambia. Lavoro, più tardi, cambia. Chino su... qua. Aspetta, eh. Mi hanno invitato qua. Allora. È tipo il mio, no? Però modificato. Fra, gli uomini in mano alla CB. Vabbè, comunque lo stavo dando 230 euro. Con doppio modulatore, ne vuole 250, vuole anche 230 compreso di spese. Doppio modulatore, non so, come potente. Tipo superstar. E poi c'è una banda in più, banda F anche. Vabbè. Io so già cosa prendere adesso. Più in là, so, vediamo. C'è la possibilità di 440 che voglio prendere. Adesso vediamo, però prima di fare tutto questo devo organizzarmi bene, un bel piano, ho fatto usci e avrò il posto, però io, fammo, dai, ecco la formula dolce io, e poi guarda mi ritiro la torta. Ah. Ok, avanti, buon porco, oh, oh. Visto che si è fatto bene in dia la PlayStation, vabbè, diciamo che meno male i soldi del display me li ha dati la carità che gente, poi ti fanno fare lavoro e poi non c'hanno soldi, uno schifo, eh. Beh, ma se non comanda cosa se ne fa, se la sbatte al culo, cambio anche quei pezzi là, adesso comanda e bisogna cuidare a capo, ma se ne posso fare, scusa, niente ci posso fare, niente, purtroppo il colpo che ha preso è troppo, a parte gli hanno tolto il display, in più quanto danno dove attacca, dove stai gli ingressi, dove tu inserisci il flex, no? Quello blocchi con quel coso, c'è un suo blocco, no? Tac. Qui non ce li ha più, e la colpo che ha preso, non so come l'hanno smaltato a terra, sono staccati quelli. E gli ho fatto una specie di modifica, praticamente gli ho messo un, come si chiama, un, ma, uno spessorino, ecco, per far sì che faccia contatto, non so, l'altro danno, Insomma, tutta roba sbattuta a terra, la PlayStation è sbattuta a terra, il computer tirato dal secondo piano. Poi ho fatto PC, prima accendeva, se non accende più, quel famoso Asus, quello che ho tirato a terra. Come sta arrivando una mia amica, lo stesso, l'ho sbattuto a terra, devo cambiare il monitor. Poi bisogna esserci altro danno. Mi chiedo se siano sbattuti a terra volontariamente, dalla stizza. Usavo, sei nervoso, quello che c'è in mano, poi lo sbatti a terra, no? Questo PC da 500 più euro. Wow. Oh, vabbè, io anche se sono nervoso non sono mai arrivato a sbattere a terra niente, né barchini né computer, e anche quella gente isterica allora. questo, c'è un due assi, praticamente era il mio, c'è un tris in mano, un tris al flop, la fa non giochi, però rilancio, quello mi vede i miei più altri, tutto strano, ma intanto c'è un leccato a colore di cuori, e io cosa faccio, quello è... vabbè, mi ha fatto colore con un 5 con un 2, io ho un 13 di assi in mano, porca paletta, mi c'era un pugno, non lo so, a un mobile o a qualsiasi altra cosa, ho tirato al PC, perché mi ci si è bloccato, praticamente ho rotto l'hard disk, e mi è costato la bellezza di, perché ancora non ero capace di formattare né niente, un'ottantina di euro quasi. Minchia, già ti è costato il pugno. No, io ho voluto mai imparare a formattare e reinstallare tutto. Io magari sapevo fare altre cosette, però formattare mi sono sempre rifiutato. Quando c'ho da formattare lo porto via Bucari e fanno tutto loro, mi mettono i programmi più usati tipo WinZip, Adobe Reader, i soliti, fanno tutto loro, non me ne frega niente, proprio mi sono rifiutato io. Prendo interrogativo. No, perché non formato più un computer dal aspetta. Porca miseria. 2000. Porco Giuda. Dal 2006. Gli avevo portato uno dal 2006 e hanno formattato. Però Luca non so la spesa, perché io poi ho comprato il sistema operativo Windows 98. Windows XP con licenza. E quindi non so quanto sia la sola formattazione e installazione del sistema. Allora, se è formata, il sistema operativo, mi sa che per loro 40 euro, loro 40-50, non lo so. Ma, no, io spiro il bozzo, sono 7, è il massimo, però solo quello posso mettere. Adesso devo procurare l'altro, Windows 7, un premium, o l'altro ancora più leggero, ma boh. Comunque quanto che ho io va benissimo, perché ne ho un altro lo stesso, ma non mi dà problemi, un altro 7, Ultimate, però 90, cioè fa la scansione il tocco dopo si blocca a metà. Vabbè, ripeto, io ho fatto tutto uno, ho fatto formattare e reinstallare il nuovo sistema operativo che ho pagato, quindi loro mi hanno fatto tutto a un prezzo. Pensando a Windows 7, adesso ti faccio un paragone. È presente i portatili cinesi, no? Quelli vanno programmati col cavetto, no? Con XP tutto fila liscio, ma con Windows 7 un casino, guarda. Con 8 non ne parliamo, peggio che mai, quindi XP me lo tengo caro anche per quello. 7 ancora non accetta troppe cose, non accetta. No, dipende da come ho messo di RAM. Se non c'hai almeno 3 giga di RAM, c'hai 4 e mezzo, la va bene. Io già gli ho messo Windows 7 Ultimate, quel piccolino, ma gira, perché ne ho fatto altri, diciamo che è pesante, però va bene, dai, va bene, dai, io mi alzo, ci sentiamo dopo, Marco lì. Va bene, ci sentiamo dopo, vediamo se c'è rimasto buon porco, Pomponio, è sparito, si è fatto dormire, va bene, ciao a tutti.